il coso, i fiumi, i laghi, le falde acquifere, quella è la cosa preoccupante. Questa roba che stai dicendo tu io l'accetto, però non è provato che sia l'uomo in maggioranza, come lo dici tu. Vabbè, io non voglio convincere qualcosa sulle cose evidenti, perché proprio su quello, sul fatto che dipenda dall'uomo, ci sono delle prove inconfutabili, come ho detto prima. Poi ognuno se la canta e se la suona come vuole, anche perché in giro ci sono interessi enormi, ma guarda, sotto sotto anche la Russia, anche la Cina hanno detto che sono consapevoli dei danni che ci sono, a dirlo la Cina, che avrebbe il danno maggiore a bloccare questo tipo di emissioni, però ha detto che siccome la colpa è stata un po' giustamente già nei primi del Novecento dell'industrializzazione dei paesi occidentali, loro non ci rinunciano fino al 2090. Quindi, questo l'ha detto anche l'India tra l'altro, quindi loro non hanno dubbi che la colpa è dell'uomo, hanno dubbi di poter interrompere domani tutte queste emissioni, punto, ma che l'uomo è accertato, quindi io non so come dicano, da dove provengano queste cose, perché oramai è il tutto peggio del tutto, cavolo. Comunque vabbè, vuol dire che anche la scienza provata sta andando a quel paese, ma non mi meraviglia con tutto quello che sta succedendo. Figuriamoci, parliamo di altre cose, meglio dai, è risolto, ha iniziato a fare qualcosa per quella cosa. Allora, per quella cosa l'ardisco nuovo, perché c'aveva dei problemi e alla fine l'ho ordinato, proprio stamattina l'ho ordinato e mi deve arrivare, non so se arriva in settimana o ai primissimi dell'altra, così glielo dà e siamo operativi. Poi ti volevo dire un'altra cosa, che io non sapevo, che non c'entra niente col discorso del computer, e lo sapevi che tu non puoi ascoltare le comunicazioni aeronautiche? Certo, sì, in effetti sì, non se, se tu guardi tutte le normative possibili e immaginabili, non puoi ascoltare niente, solo i radioamatori e forse solo i CB, forse, ma anche di lì è controversa, ma tieni presente che tutte queste cose, queste leggi sono state fatte, perlomeno in Italia, da persone altamente incompetenti, perché quando c'era Gasparri, ad esempio, se non ricordo male, hanno messo, hanno attribuito delle frequenze tipo la 433 all'Apri Cancelli, quindi quando qualche radioamatore trasmette anche a bassa potenza vicino a un cancello che ha i telecomandi a 433, figurati, con quei ricevitori puoi trasmettere anche a 433 o a 434 con le imballi, che è una cosa meravigliosa. Poi un'altra cavolata che si ricordano tutti sono gli LPD, in cui c'erano i transponder della Polizia di Stato, e tutti sentivano quello che diceva la Polizia di Stato, dopo li hanno criptati, però comunque chiunque aveva la possibilità di disturbarli con gli LPD. Così è la storia. Adesso mi sa che è arrivato Antonio. Tu sei Antonio? Claudio, poi c'è sentito questo portantista, quando parli tu ti rompe. L'abbiamo scoperto, è Claudio alla fine, meglio a Fra. Allora, non so altro cosa fare, ma non è rompere le balle a voi, blu. Non mi fai delle parolacce, mi fa carizzare. Vabbè, Claudio, fa posto. Va bene così. Troppo, vi stavo ascoltando, infatti c'è solo il gax acceso. Ma già Fra. Sì, oggi era una giornata bella, da zappare, da piantare l'orto e da aggiustare anche i muretti. Da cambiare antenna, la posizione. È cambiata. Più forte di te arriva Carlo, roba allucinante. Oh Carlo, allora, tu non è che hai fatto molto, hai cambiato la polarizzazione dell'antenna, siccome noi trasmettiamo in verticale e tu eri in orizzontale, è chiaro che adesso trasmettendo in verticale hai un segnalone. Arrivi quanto è Roberto qua, te l'ho già detto. Buonasera Roberto, buonasera Gianfranco e buonasera di nuovo a Claudio. Sì, ho fatto tutto, ho approfittato della bella giornata di oggi e mezz'oretta ho solo girato, mollato 4 dadi e l'ho girata col livello, poi l'ho messa bene, stretto tutto e non ho toccato nient'altro, ROS perfetto, non sale neanche meno di 1. Aspettate che forse c'è Eugenio, avanti Eugenio. Amico mio, mi sente sempre, buonasera a tutti. Hai sentito a Carlo adesso, Eugenio? Che ha voglia, ci stavo parlando poco fa, alla grande, mi arriva fortissimo. E invece gli ha cambiato, insomma, ha messo da orizzontale alla verticale antenna e adesso fa meglio, è molto meglio. Vai già fra tu. Sì, anche per me arriva molto forte Carlo finalmente. Sono un po' confuso, non so se sia Carlo di ma quello dove non è sole, credo. Mi correggerà magari, se non è così. Oh, è il mio collega Goleali. Carlo di Luna e Sole, comunque qua mi arrivi oltre 9,50, nei picchi arrivi 9,55, è una bomba, a livelli di Claudio quando era qua vicino, sì Carlo. Nemera, e sono contento, così ho trovato una buona posizione e adesso lascio tutto così. Buonasera collega. Buonasera Porto Torres, ci risentiamo. Sono ben contento di stare arrivando. 9,30, 9 più 30, mi arrivava 9,5, quasi 9 più 10. 9 più 30, quanto è testa arrivando qua? Manca 90 veramente. È chiaro che se cambia la polarizzazione, noi lavoriamo in verticale, tu in orizzontale, c'era un abisso. Lascia tutto così, dimenticati dell'antenna, lascia tutto così perché sei fortissimo. Io non ti vedo e sono abbastanza distante da te, arrivi fortissimo veramente. Ecco, hai cambiato apparato, perché il tuo segnale non è più quello di prima? Secondo te il K cosa c'ha, il bip? Ah no, hai ragione, non ci ho fatto caso al bip. Questo è il Galaxy Saturn Echo, 10 watt di uscita. Carlo, io quanto ti arrivo per curiosità? Fondo scala, a bomba. Non ne dubitavo, visto che tu mi arrivavi 9,35 ieri, adesso sei quasi 9,55, 20 punti hai guadagnato. Meglio così, sono contento, dai, così ho trovato una posizione buona dell'antenna, adesso non la sposto. Assolutamente, e tu, Gianfranco, scusa Gianfranco, qui più lontano, e oggi quanto ti arriva Carlo? 7, e poi ho pochi picchi positivi quando modula. E a te Gianfranco? Io ho questo affare a barrette che non serve a niente, quindi è inutile che crea un controllo, dovrebbe essere 9 qua a segna, ma sono tutti sballati. Comunque va bene così, visto già fra Carlo alla grande. Comunque tornando a noi, il discorso delle cose, è perché PMR non è la stessa cosa Gianfra, e non è una frequenza radioamatoriale, è un canale. No, in PMR no, è 446. Non c'è un canale di coso vicino, non mi ricordo che cosa era, il canale 1, boh. No, assolutamente, il PMR è per tutti, sia in digitale, sia in cripto e sia in analogico, quindi non c'entra niente con i radioamatori, è di libero uso a quelle potenze. Quelli che ti ho detto erano in LPD, da non confondere con il PMR, grazie a quello rincoglionito di ministro. Ah, va bene, il libro di Topolino stai leggendo, frequenza UHF 430-440, UHF 144-146. No, ho detto, adesso non vorrei confondere gli LPD, che hanno una frequenza in uso, o gli LPD o il PMR, che sono dedicate anche ai radioamatori, un canale. LPD, frequenza secondaria, ma noi la usiamo poco, ma PMR è un'altra cosa. E allora ho sbagliato io. Comunque c'è un canale dell'LPD che corrisponde alla frequenza radioamatoriale. Non mi risulta. L'LPD parte da 446-075. Cos'è Gianfra? Non mi risulta. Io l'ho letto da qualche parte. Infatti si diceva proprio che il radioamatore, pur avendo quella frequenza, non può entrare con l'apparato radioamatoriale, mentre con l'LPD può entrare però senza usare le nominative. No, sono quelle fesserie che circolano. La gente non ha capito ancora come si leggono le leggi, cioè sulla Gazzetta Ufficiale. Gli LPD sono apparecchi, insomma quelli a 446 sono apparecchi che si possono usare solo come portatile, tanto è vero che quello che era uscito veicolare con l'antennino lo hanno vietato proprio perché l'antenna non può essere rimossa da quelli a 446. Ma vai tu a farglielo capire alla gente. Stai confondendo, Roberto, PMR con l'LPD. L'LPD, noi in LPD abbiamo otto frequenze secondarie, dove c'è una legge particolare che diceva appunto che se entrava un radioamatore, cioè se entrava uno lì in frequenza LPD per dire a 433.075, tu non, come radioamatore non potevi parlare perché c'è il nominativo e quindi sei automaticamente costretto a parlare con un altro radioamatore usando il nominativo. Questo era quello che si diceva e si dice ancora. Mentre in PMR è un'altra cosa. PMR che parte da 446.075 il canale 1 sino a Guai, se non mi ricordo, lì si deve usare il portatile con 500 mW, mentre invece tutti hanno comprato quella roba cinese Boafeng, come di cazzo si chiama, e già quello è vietato perché non è più un portatile ad uso PMR, è un portatile ad uso amatoriale e così via, veicolari, antenne sul tetto e mi bomba. Ma ti ripeto, io sto rispondendo alla tua domanda, non sono cazzi che mi interessano, ognuno a casa sua fa quello che vuole, poi si assumeranno la responsabilità, questo è quello che è stato sempre detto, però stai confondendo, Roberto. Allora, lo sto confondendo, adesso vi dico esattamente perché c'è proprio la frequenza. Allora, LPD, modulazione, tutti dicono modulazione, NFM, banda stretta e larga, dire DFM, frequenza da 433.050 a 434.790, che è il limite di banda, che corrisponde a dei canali radioamatoriali, perché c'è la banda dei 433.500 dei radioamatori che capita sulla frequenza delle PD. C'è scritto qua, non lo sto dicendo io, cioè, infatti la controversia era quella lì, la cosa ridicola che hanno permesso di questi LPD di lavorare su frequenze radioamatoriali. Cazzo Romè, allora vieni ci metti il miglior cazzo ai colpi di Gricco. Ti sto dicendo l'LPD, ok, LPD che va la nostra frequenza da 430 a 440, chiaramente prendi le frequenze secondarie LPD e sono amatoriali a tutti gli effetti. Ma il PMR è un'altra cosa. Vabbè, io ho sbagliato a dire PMR, però sto parlando dell'LPD, sto dicendo che questi giocattolini di debole potenza, LPD, quei walkie talkie che hanno 10 mW o 50 mW, non lo so, lavorano su frequenze radioamatoriali, è quello che io sto dicendo. Certo che sì, ma infatti se entro io e li sento nella frequenza che uso secondaria, li mando fuori dai coglioni, è chiaro, è normale, ok, come lo fa Gianfranco che è un radioamatore, ma in PMR non li puoi vietare di parlare. In LPD se io entro in frequenza secondaria a 433.075 io parlo con un altro radioamatore col mio nominativo e loro vanno fuori dalle balle, su quello non ci piove, hai ragione. Quello che volevo dire, a 433.075 corrisponde al canale 1 LPD. Questo era tutto il discorso mio. Quando hanno fatto il piano delle frequenze ci hanno messo gli LPD nella banda radioamatoriale, era tutto questo il discorso, bra, nient'altro di più. Ma infatti in LPD non si può parlare, in LPD non è vietato parlare perché ci sono le frequenze secondarie amatoriali. Allora cosa ha fatto il Ministero? Ha segnato a noi CB il PMR che è di libero uso, come ti ha spiegato Gianfranco. Però in LPD non si può parlare. Non si può parlare con apparati radioamatoriali, ma con quei volti tutti di debole potenza puoi parlare. Non ci puoi parlare, sono frequenze secondarie, non si può parlare. Oramai si può parlare in PMR, hanno segnato la frequenza PMR a noi CB, capito? In LPD non ci puoi parlare. Non ci puoi parlare perché è già successo un casino e molta gente è stata denunciata. Essenzialmente perché non ha capito un tubo di quello che sta facendo, perché così come non hanno capito un tubo molti del funzionamento del PMR, perché la gente è mandrona a studiare e a leggere, è mandrona a studiare e a leggere, perché sennò avrebbe scoperto che il PMR, le frequenze del PMR 4.46 ad esempio, hanno una canalizzazione differente. Certi apparecchi fino a poco tempo fa, tipo gli Yaesu, non ci potevano neanche andare, perché andavano a trasmettere e si mettevano sulle frequenze di mezzo, e come noi andiamo sul 10 che è a 27.075, al posto di andare a 27.045 quelli trasmettono a 27.700, e quindi occupano due, tre canali, fanno un casino che è 4 e basta. E mentre invece Roberto, tutta la 4.33 come statuto secondario assegnata ai radioamatori, e i radioamatori si devono stare zitti se sentono altre comunicazioni di qualsiasi altro, di qualsiasi genere siano, digitali, infonia, criptata eccetera, perché quelle frequenze sono assegnate, come la maggior parte delle frequenze, anche al ministro della difesa, tra l'altro. Sì, quello infatti sta dicendo, appunto, tornando al discorso in atto, che chi ha fatto queste leggi probabilmente non sapeva manco cos'era la radio, se la butti così a fare un discorso, come è successo per la TV, l'hai visto adesso la TV, hanno preso la banda dei cellulari, ha preso una parte della banda TV, perché c'è questo cacchio di coso, di nuovi tipi di trasmissioni, eccetera, eccetera. Hanno ridotto la banda delle TV, eccetera. E così è successo con queste frequenze che hai detto tu, come ha detto poco fa quell'altra frequenza che non mi ricordo, che è stata occupata da altre persone, cioè da altre amministrazioni. Beh, ce li hanno messi anche sulla 434, che è in uso al Ministero degli Interni, tanto vero che c'è la polizia, ci sono ancora i vigili del fuoco. Quindi guarda che grossa cavolata che hanno fatto al Ministero. Ehi, ok, vabbè, stiamo pulitando. Avanti Carlo, poi farà girare Eugenio. Avanti Carlo. Sì, sentivo Gianfranco adesso e hanno fatto una bella cavolata. Comunque, radio LPD e PMR erano di libero uso e massimo potevano avere mezzo watt di potenza. È ovvio, un radioamatore invece può andare anche in quelle frequenze con maggiori watt. Però chi ha fatto il casino lì è il Ministero, tutto lì. Oh Gianfra, dimmi qua. Ah, poi ci sono ancora è ancora assegnata ai vigili del fuoco quella in UHF a 434. Sì, dovrebbero avere, che io ricordi, avevano il canale regionale. Quindi, e poi ci sono anche le altre, insomma, non è così a dire quella lì, quella là, bisogna documentarsi bene sulle cose, perché molti sentono prendere il PMR e ci piazzano l'antenna, se li trovano a quelli li denunciano e le fanno, come si suol dire, il coso a quadretti. Certo, perché le LPD non li modificano. Ma legale, le LPD c'ha 10 mW, ma non sai quanto fai con le LPD. Con le LPD vai praticamente a 100-150 metri di distanza con quella potenza. Poi se c'hai anche un edificio, un cemento armato e con partita cantante, peggio che mai. Quindi a volte non capisco, la gente non si informa, non guarda i decreti. A noi ci rompono le palle per ogni cosa. Figurati che noi abbiamo molte frequenze HF in statuto secondario, quindi anche lì se senti un telex, se senti un qualcosa di strano, te ne devi andare. Certo che sì, qua gli LPD li usano, sono quei Boafeng, frequenze allucinanti, cioè potenze allucinanti, 5 watt con l'antenna SM. No, non confondere, nell'LPD non c'è nessuno, Roberto, perché è monitorizzato, no? Non ce n'è problemi. È il PMR che stava funzionando un po' quello di scimmia, ma qualcuno forse ha capito come funziona e adesso sta funzionando benino, insomma non è più come prima, il primo periodo, però sta funzionando tutto bene. Nell'LPD non c'è nessuno, Roberto, perché io c'ho tutto memorizzato, c'ho le UHF sia simplex che sui ponti e non c'è nessuno. Io non ho mai sentito un questione di gente al di fuori fuori dei radioamatori, anche in statuto secondario, per cui a volte quando mi sposto per fare delle prove, noi ce l'abbiamo la Simplex, Gianfranco lo sa, ed è proprio una delle frequenze secondarie che usiamo in LPD, diciamo, però quello nominativo chiaramente, non così a Claudio, a Giovanni e Peppino come facevano prima, non si può entrare lì, nel modo più assoluto. Il PNR, ognuno, Gianfranco e Roberto, lo usa come cacchio vuole, perché ognuno, ripeto, anche adesso fa quello che le piace, poi chiaramente si assume le proprie responsabilità. Io anch'io, c'era un periodo che entravo a salutare, a volte facevo due chiacchiere, chiaramente con le mie radio in uso amatoriale, ma poi ho capito che la cosa non poteva andare bene, quindi non ci sono più entrato e basta così, capito? Tutto qua. Vabbè, c'è Chihuahua in parcheggio, avanti Chihuahua se mi ascolti. Continuate, io sto ascoltando, una cosa mi interessa. Continuate. Registrato, scusatemi, non giù. No, il discorso è nato, claro, sai che cosa? Che tutti ascoltano, almeno tantissime persone hanno ascoltato la banda aeronautica, tutti convinti, me compreso, che si potesse ascoltare assolutamente vietato, puoi ascoltare solo le bande radioamatoriali, per dire, se tu ascolti la banda marittima, tu non la puoi ascoltare teoricamente. Beh, certo che sì, ma io non sono di quelli che si mette a ascoltare perché non me ne affutti nulla, però ti ripeto, l'uso della radio, c'è chi capisce qual è il vero uso che ne può fare, c'è quello che fa quello che le piace, quindi ognuno, ti ripeto, a casa sua fa quello che vuole e nessuno può dirle niente, ok? Quindi è così. Vabbè, a me certi discorsi non è che mi riguardino più di tanto, io ho risposto a te perché ti stavo impappinando tra PMR e LPD, nell'LPD è secondario amatoriale e non si può entrare nel modo più assoluto. A noi CB è stata assegnata la PMR e ognuno la usa come cacchio vuole. Tutto qua. Va bene, mi ritiro per deliberare. Buonasera a tutti, arrivederci e buon viaggio. Avanti Giulio. Ok, ciao Claudio. Grazie per avermi fatto entrare. Ciao Gianfranco, Roberto, Eugenio e Carlo. Sì, stavo ascoltando anche a riguardo comunque del PMR, io ho una tabella qui che ci sono delle regole anche lì, non è detto che perché noi abbiamo la possibilità di parlare dall'1 all'8 canale, parlo del canale PMR, che non ci siano delle regole anche lì. Ad esempio, canale 1 è canale monitor Italia, ritrovo e discussioni. Canale 2 è canale monitor RRP rete radio. Poi c'è il canale 3 che è per FM, sempre piloti di droni. Poi abbiamo il canale 4, no, mi sto confondendo, il canale 3 è libero, il canale 4 è per piloti di droni, il canale 5 è per gli scout, poi anche in DMR parlano gli scout, poi c'è il canale 6 e il canale 7 che sono liberi, poi c'è il canale 8 che sarebbe l'ultimo del PMR che a noi ci permettono di parlare, sono per la sicurezza in montagna. Per cui anche qui in PMR ci sono delle regole, questa è una tabella che io sto leggendo e ce l'ho davanti. Avanti Roberto. Sì, no, hai fatto bene a ricordarle queste cose perché c'è molta confusione. Ripeto, molti, me compreso, pensavano che si potessero ascoltare le trasmissioni degli aerei, non dico quelli militari che non li ascolti, però le trasmissioni civili. In tante radio c'è la banda aeronautica, anche in radioline che non valgono niente, c'è proprio quella banda lì. E io pensavo fosse una cosa di libero ascolto. Invece il piano nazionale delle frequenze, il decreto dice che tu puoi ascoltare solo le bande radioamatoriali o le broadcast. Tutto quello che ascolti, se per caso ti capita di ascoltare, devi far finta di niente, se no guai, sono dei problemi, se ti trovano la radio sintonizzata su quelle frequenze lì puoi passare per passibile di denuncia. Avanti Eugenio. Ma questo sono al corrente anch'io, perché noi al lavoro abbiamo dovuto prendere il patentino nautico per poter parlare in VHF marino, capito? Tu non puoi neanche ascoltare le trasmissioni marine, capito? Ah, cioè anche io il patentino VHF marino, per quello, perché ho la patente, per, nel caso dovesse servire, ho la possibilità di mettermi il coso VHF marino. Ok, facciamo riprendere a Carlo, avanti Carlo. Sì, io per esempio in passato ho avuto un VHF marino e lo tenevo nel gommone, quando avevo il gommone, poi ho venduto tutto ovviamente, ho venduto anche quella radio. E comunque si può acquistare, perlomeno io sto parlando di circa 20 anni fa, si poteva acquistare un VHF marino usato ovviamente per scopi di navigazione, sicurezza in mare, 156-800 il canale diciamo di chiamata di soccorso, e poi si passava agli altri canali che sono tutti appunto, sono tutte frequenze canalizzate, e ovviamente c'è sempre il divieto poi di trasferire eventuali comunicazioni sentite a terzi. 156-600 il 12 che è usato dai piloti del porto, della capitaneria, eventuale compagnia portuale, ormeggiatori e via dicendo. Poi deve tenere sintonizzato il canale 16 di soccorso sempre per qualunque comunicazione, e quello nei comuni però lo devi soltanto usare in caso di necessità, non è che ti metti a comunicare così per divertirmi. Infatti, cioè lo lasci là e poi se hai necessità fai la chiamata su 156-800 che mi sa il 16, il canale d'emergenza marino, e poi ti risponderà chi di dovere. A quel punto poi attendi i soccorsi e punto e basta, è finita la storia. No, oggi, ma lì ci siete voi però, e tu ce l'hai in uso quello per lavoro. Quale? 156-600, lo usate voi? Sì, sì, lo usiamo noi, i piloti, la capitaneria, gli armeggiatori, capito? Sono un canale diciamo delicato, diciamo così, perché c'è la capitaneria, ci sono, poi c'è il canale 14 che è usato per le manovre dei rimorchiatori, che anche quello è un canale, io li chiamo delicati. Certo, certo, vabbè, ma tu lo usi perché avete l'autorizzazione, questo lo so perché l'aveva detto Mauro una volta. Va bene, beh, continuate, vai a chi tocca. Va già fra e poi Giulio. Ah, ti che tocca, tocca. Allora riprendo io, dai. Roberto, ti ho mandato quella tabella che ti ho detto, che ho detto poc'anzi, anche a Claudio l'ho mandato. A te Roberto ti è arrivato, a Claudio ancora no. Vabbè, ci impiega un po' più di tempo per arrivare a Claudio. E così potete leggere quella tabella che ho detto poc'anzi, Roberto, vai. Sì, sì, grazie. Ok, facciamo riprendere a Gianfranco. Sì. Sì, allora, innanzitutto il PMR è stato liberalizzato non dall'Italia ma dall'Europa, e l'Italia si è solo adeguata. L'utilizzo dovrebbe essere libero su tutti i canali, che non sono più neanche 8 in realtà, sono 16, perché sono 8 normali, quindi analogici, e altri 8 digitali con vari sistemi, DMR, DPMR e così via, e anche qualche altro. Quindi su quel punto di vista l'unica cosa estremamente chiara è che si possono usare solo apparati omologati con 500 milliwatt e con antenna non amovibile. Su quello proprio è ministeriale. Io non parlo di cose che magari ha fatto qualche voltino lì per farsi la radio montana o quelle cose lì. Io parlo di cose del ministero. Poi per quello che riguarda la quello che ha detto, se non sbaglio, Roberto, attenzione a non confondere la ripartizione delle frequenze con l'utilizzo delle frequenze. L'utilizzo delle frequenze è a discrezione dei concessionari, che può essere il Ministero della Difesa, dell'Interno, delle Finanze e così via, e dei radioamatori. Sulla ripartizione del piano nazionale delle frequenze ci sono le frequenze e le assegnazioni. L'unica cosa di uso che c'è sono per i telecomandi e qualcosa del genere, che sono su varie frequenze. quindi questa è la sostanza. Per quello che riguarda l'ascolto poi di determinate frequenze, per quello che riguarda il rianimatore, c'è proprio una postilla, dice, siccome tutti gli apparati bene o male sono a larga banda, nel caso si ricevano comunicazioni al di fuori della banda eccetera, o comunque riservate, si è tenuti a non diffonderle, perché adesso anche con la legge della privacy uno può anche vedere alcune cose, ma non le può diffondere, cioè mettere su Facebook, su quelle cose lì. Scusate, io me ne vado a sentare un po', ci sentiamo dopo, dai, a dopo, ciao ciao. Ok, ciao, ciao Robert, ci sentiamo. Sì, ma questo è da sempre, quando uno ascolta, anche uno che ha prima c'era la concessione, cioè l'autorizzazione all'ascolto, e si poteva fare, io ce l'ho da tantissimi anni, e dietro addirittura c'è scritto che se ti dovesse capitare di ascoltare delle trasmissioni, appunto di quello che stavamo dicendo, non si possono divulgare, ma questo mi sembra più che giusto che debba essere così. Tu non puoi andare a mettere in piazza dei segreti magari anche di Stato, perché potrebbero anche capitare alle volte, non si sa mai, l'elettronica è molto strana, certe trasmissioni si possono anche ascoltare tante volte, magari con certe apparecchiature un po' sofisticate, però uno che le ascolta poi non si deve assolutamente permettere di divulgarle, se le deve tenere per sé, ed è giusto che sia così. Io nella mia concessione dietro c'è scritto che non si possono divulgare eventuali intercettazioni di trasmissioni di un certo livello, e così va bene. Avanti Eugenio. E quella in cartoncino, tu se guardi bene, come quella che ho io del 1980, ci sono anche le frequenze che puoi ascoltare, però non è che puoi ascoltare tutte le frequenze, solo frequenze amatoriali. E certo che sì, è così, infatti sto parlando di quello cartoncino che c'è dietro, ci sono scritte le frequenze, certo, però potresti anche spazzolando sentire altre cose, non li devi divulgare nella maniera più assoluta, è proibito dalla legge ed è giusto che sia così, e se no diventerebbe veramente un casino, veramente, ci mancherebbe altro. Vabbè, dai, Eugenio non ha ripreso, avanti Carlo. È interessante la cosa, sì, il divieto assoluto di divulgare ciò che si intercetta, quello è una cosa fondamentale, e poi per il resto PMR, LPD, penso che con mezzo watt, con l'antenna inamovibile, sia concesso più o meno a tutti l'utilizzo, insomma. Sì, beh, diciamo che l'utilizzo c'è, anche io ho parlato del canale 1, che è quello dove appunto serve per le chiacchierate così, però si può utilizzare anche l'1, il 2, il 3, il 4, il 5 sia in allo canale 8. Poi ha ragione anche Gianfranco quando dice che sono 16, perché poi ci sono anche i canali digitali, certo che sì, però parlando del PMR, siccome è di debolissima potenza, non possiamo utilizzare anche un altro canale che non corrisponde al canale 1, cioè anche fino al canale 8, però bisogna appunto, come stavamo dicendo, che non si possono usare potenze, non si possono antenne supplementari, e deve essere il suo gommino e basta, ma è giusto che sia così, poi ognuno, ripeto, si prende le sue responsabilità e saprà lui come comportarsi nella vita. Avanti Gianfranco. Sì, infatti, tieni presente che il PMR e l'LPD, il PMR, a differenza dell'LPD è stata una cavolata, sono frequenze di libero uso, quindi sono, la normativa è stata scritta in Europa, e per quello che l'Italia si è dovuta adeguare, in ritardo come sempre, ma tanto è vero che anche nella 27 oramai hanno tolto qualsiasi forma, è diventata come IPRM, di libero uso con vincolo di potenza a 4-5 watt e nient'altro, quindi è tutto lì. Riguardo al marino, ci sono molte stazioni comunque che sono addirittura tenute ad avere almeno un ricevitore per l'ascolto continuo sul canale 16, quello sì, perché sono punti, magari dovranno prendere la radio, invece una stazione la potrebbe ascoltare, qualche situazione di pericolo, e comunicarla agli organi competenti, ecco. Poi molte normative, attenzione, vecchie, sono sorpassate dalla tecnologia, perché oramai le stazioni che operano ad esempio in Tetra, in DMR, possono andare tranquillamente con varie criptature. Poi le comunicazioni di Stato usando il protocollo TEA addirittura, che è assolutamente indecifrabile, quindi sono sicure, a prescindere che tu ascolti qualcosa, non ascolti un tubo, perché ascolti il rumore e basta. Quindi sono tutte le normative che ci sono, spesso sono vecchie e quindi inutili, capito? Gli unici in chiaro oramai, se vogliamo, sono gli aerei, sono le navi, basta, ma tutto l'altro, soprattutto in continente, qua magari siamo un pochino più arretrati, ma in continente è quasi tutto criptato. Ciao, Claudio. Dimmi, oggi. Dimmi. Allora, non Claudio tu, Carlo, cioè, scusa Carlo. Dimmi Eugenio. Cioè, nel tuo campo, voi le usate le radio? Sì, abbiamo le comunicazioni di terra, sono sui 440 e fruscia, per le comunicazioni di terra abbiamo due canali, uno è canale che si usa per comunicare terra-torre e invece l'altro terra-terra, però sono sui 440. Ho capito, lo usate tutti o lo usa solo il capo squadra? Insomma? No, allora terra-terra li possiamo usare tutti, invece i terra-torre li usano solo chi fa la safety e quindi ha l'accesso alla pista, le aree di manovra, perché quando si accede a quelle aree bisogna sempre chiedere il permesso alla torre, per cui hanno quei collegamenti lì e le possono usare safety e ADM. Carlo, sì. Ma Alessandro ha accesso a quello, fa quel lavoro lì, comunica con la torre lui? Alessandro terra terra, comunicazioni di dipende dal servizio che fa, perché forse Alessandro molte volte va fuori in operativo e allora loro possono comunicare anche con la torre. Sì, ho capito, perché c'era un periodo che era praticamente si occupava, stava in pista, diciamo. Sì, esatto, dipende dal servizio che fa, ci sono quelli che fanno plurimansioni, che magari fanno, che ne so, accettazione, check-in, eccetera, però in determinate giornate li spostano e fanno, che ne so, il centraggio, quindi vanno in operativo a lavorare. Sì, perché un periodo mi sembra che era anche caposquadra, adesso mi ricordo. Va bene, fate girare, cambio per Gianfranco. Sì, anche io devo chiedere una cosa a Carlo. Carlo, mentre invece quelli dei bagagli, cioè quelli incaricati di caricare l'aeromobile con valigie oppure di scaricarli anche, quelli lì operano, non so se siano autorizzati o meno sulle frequenze 100 VHF, 143 se non ricordo male, o 146, e cioè dovrebbe avere anche una specie di ripetitore. Sì, c'è un ripetitore sul VHF, però la trasmissione è in VHF, e sì, anche i bagaggisti hanno le radio perché comunicano col caposquadra, perché cioè il caposquadra li deve avvertire quando i carrelli sono pieni di portarli sotto bordo per il carico, per cui tutte le comunicazioni avvengono sempre su quel canale lì, che lo può usare sia chi fa il check-in, sia chi fa l'imbarco, sia i bagaggisti, sia i caposquadra, usano tutti quel canale lì, quella frequenza lì. Invece altri servizi, safety e ADM, usano il secondo canale, che è per le comunicazioni terra-torre. Sì, però io parlavo che quelli lì erano in VHF, non in UHF, quelli che ti ho detto. No, sicuramente quello è il ripetitore, al contrario, il ripetitore, generalmente le trasmissioni sono in VHF e il ripetitore in UHF, invece in aeroporto è al contrario. Ah, ho capito. Ma cosa un po' strana, il ripetitore è un cross link quello. Comunque va bene, e avanti a chi tocca, Giulio. Ok, riprendo io. Sì, tornando per un attimo anche alla LPD, Gianfra, io ho avuto modo di ascoltare diverse volte negli hub dove fanno le vaccinazioni per il Covid, che trasmettono appunto proprio il 433-075. Loro utilizzano quella frequenza per dirigere, diciamo, il traffico di ingresso, eccetera eccetera. Ce l'hanno lì i vari vigili così addetti al traffico all'interno, che comunicano con l'LPD 433-075. Oggi non ci sono, evidentemente non ci sono vaccinazioni, però quando ci sono le vaccinazioni basta accendere quella frequenza e io li sento, per cui l'LPD anche entra in causa in questo momento, tornandoci un attimino solamente. Avanti ancora, Gianfra. No, a chi toccava adesso? Carlo, riprendi tu e rilancia per l'amico del portatore. Eugenio, ecco, Eugenio, riprendi tu. Sì, sì, no, io volevo sapere solamente quel fattore delle radio lì da poi di Carlo. Ero curioso, ero curioso. Sono abbastanza chiaro. Riprendi Carlo. E c'è noi che facciamo sicurezza, abbiamo un altro canale sempre più o meno vicino là, ed è il canale 5 sulle radio, però lo usiamo solo gli operatori di sicurezza. Ok, ma i veri aeroportuali sono quelli che scaricano l'aereo, giusto? Allora, tutti gli operatori aeroportuali sono i bagaggisti, caricano e scaricano, poi ci sono gli operatori di rampa, poi ci sono gli addetti ai controlli di sicurezza come siamo noi, poi ci sono gli operatori di scalo, sono diverse figure professionali. Ok. Io avevo un amico che faceva l'aeroportuale, scaricava proprio gli aerei, i bagagli degli aerei di Porto Torres. Allora era un bagaggista, quindi quelli fanno sia carico e scarico bagagli, ma fanno anche l'assistenza a terra, per esempio mettono i tacchi agli aerei, oppure fanno il marshal per le operazioni di avvicinamento dell'aeromobile allo stallo, insomma fanno diverse cose. Ma è tutta una società con diversi rami o sono delle società individuali diverse una dall'altra? No, allora la società che gestisce l'aeroporto è Sogeal, che ha l'appalto di tutto, e quindi sono tutti dipendenti della Sogeal, e poi ci sono le diverse specializzazioni. Ah, ok, vabbè, quello lo sapevo, c'è la Sogeal, però credo che fossero tante società, capito? La Sogeal è una di quelle. Ok, va bene. No, gestisce tutto Sogeal, l'unica società esterna in aeroporto è la società di pulizie e quelli che fanno i manutentori, gli elettricisti, solo quelle sono esterne, poi tutto il resto è Sogeal. Beh, il musichiere è arrivato. No, d'altra parte, tornando, io un po' anzi ti ho rilanciato perché volevo sapere qual era il tuo pensiero a riguardo dell'LPD, che quelli sì, so che sono assegnati ai radioamatori, però intanto lo stanno utilizzando negli hub dove fanno le vaccinazioni, anche se capisco benissimo che sono di potenza ridottissima, ma intanto però lo stanno utilizzando, perché io non sono proprio precisamente dove è il lab, io sono distante e lo sento, li sento benissimo, chiaramente, e non solamente io, li sentono anche altri a Sassari, adesso non mi ricordo che li ha sentiti, per dire, no, già fra, quindi non sono radioamatori, eppure utilizzano quel canale, forse hanno il permesso, non lo so, volevo sapere il tuo pensiero, Gianfra, è per quello che ti ho rilanciato subito un po' calci. Vai. Dunque, non so se lo passo Giulio questa cosa, comunque, come ho detto prima, a noi quelle frequenze sono state assegnato come statuto secondario, il che vuol dire che se c'è qualcuno, noi non lo possiamo sapere chi è questo qualcuno, quelli lì potrebbero anche far parte della protezione civile, quindi se occupano quel canale noi siamo in secondo piano, ci dobbiamo spostare da quel canale, perché noi non possiamo sapere se questi signori sono autorizzati, non abbiamo titolo a chiedere autorizzazione essendo in statuto secondario, quindi di conseguenza il centro d'ascolto che dovrebbe essere in via Cavour, credo, se non ricordo, alle poste comunque, sicuramente licenze, sicuramente avranno dato l'autorizzazione anche tramite la prefettura all'utilizzo di quelle frequenze lì, di quel determinato canale, quindi siamo noi che non dobbiamo parlarci sopra, ecco, capito? Essendo tutta la 433 fino praticamente in statuto secondario, quindi noi di lì contiamo poco. Ok, da sì, più o meno anch'io avevo intuito che la situazione è così. Bene, dai, adesso abbiamo anche il musichiere, vabbè, comunque l'hai passato alla grande, non c'è problema. Avanti Carlo. Ora, riguardo gli operatori lì che ci sono negli hub vaccinali, so che sono dipendenti di un istituto di vigilanza e gli istituti di vigilanza hanno le radio con le frequenze assegnate ovviamente, poi non so se quelle radioline che usano lì per gestire insomma il traffico locale delle persone, delle auto, può essere pure che siano le classiche radio PMR che magari costano poco, anche se ho visto che sono tutti dipendenti di istituti di vigilanza. Ma dove? Dove state parlando? Al vaccinale, ad esempio, quello che c'era a Predanieda. Sono tutte cooperative quelle, sono tutte cooperative che si hanno aggiudicato appalti, anche l'autorità portuale al porto, che ci sono le guardie, no? Usano i VHF marini, non capisco come facciano, comunque sono tutte cooperative, c'è la CoopService, la Vigipol, sono Eurovigil, una cosa del genere, il Vigile, sono tutte cooperative, indossano il gilettino autorità portuale. C'è anche un'altra che poi ha perso l'appalto, è sparita, la Mondial Pol. Ma quelle lì c'hanno anche le loro frequenze, per quello che ne so. No, assolutamente. Usano le nostre in ascolto. Perché molte volte noi li chiamiamo per far entrare una macchina, o che ne so, un carro attrezzi, un elettrauto. Noi li chiamiamo per radio e niente, comunichiamo con loro tramite radio. Ripeto, per dare l'autorizzazione a far passare un carro attrezzi o che ne so, capito? Sì, no, io dicevo quelle che hai nominato, c'hanno le radio proprie di istituto, c'hanno anche il ripetitore a Usilo, credo, e sono anche collegate tra l'altro con Olbia, perché molti fanno servizio a Olbia, quindi c'hanno frequenze proprie in VHF normalmente, qualcuno anche nel civile VHF, poi utilizzeranno quelle perché sono di lì evidentemente, e magari l'autorità portuale ha dato quelle disposizioni. Niente, quelle del coso noi non lo sappiamo se sono autorizzati o meno e non ci riguarda comunque questa cosa, dato che fanno un servizio di pubblica utilità, può darsi che magari abbiano un'autorizzazione del Ministero in tal senso, ecco, non lo sappiamo e quindi non possiamo dire niente. A te Carlo. Allora io ho lavorato anche per qualche istituto di vigilanza una ventina d'anni fa e ho lavorato al porto di Olbia lavoravo per l'Esecutive, c'era pure la Vigipol, Vigilanza Sardegna, ed eravamo tutti dipendenti, avevamo le radio. radio tutti canalizzati in un'unica frequenza che ci aveva dato l'autorità portuale, la quale aveva fatto la richiesta alle poste, al compartimento di Cagliari, immagino, per farsi attribuire la frequenza. Comunque era solo un canale, lo usavamo tutti. Sì, avevate il 13, credo. Noi li chiamavamo molte volte sul 13. Immagino di sì, immagino che fosse una frequenza intorno ai 156 e qualcosa, perché le radio erano quelle praticamente solo con un canale, e quindi non so, sicuramente le aveva preparate qualche tecnico, inserita la frequenza canalizzata così su quel canale lì, però non c'era un display che ti potesse indicare la frequenza. Penso che operasse su quelle frequenze lì intorno ai 156, magari era il 12 come dici tu. No, il 12 no, perché il 12 non sono esenti dal 12, questo te lo posso confermare, ma noi li chiamiamo sul 13, mi sa tanto, o 14, non me lo ricordo, uno dei due. Vabbè, comunque usano, perché poi guardiamo, abbiamo anche confrontato il VHF, sono VHF marini e uguali illustri. Può essere da 20 anni fa che siano cambiate anche le cose, attualmente io non so quali radio, può darsi pure che usino quelle marine per evitare magari interferenze usando altre frequenze, non lo so. Allora 20 anni fa era così a Olbia, adesso io non so, so che ci sono sempre istituti di vigilanza sia a Olbia che a Porto Torres, e sempre istituti di vigilanza ci sono negli hub vaccinali dove ci sono le guardie giurate armate e quelli che fanno servizio di portierato e cortesia, però usano tutti le radio, penso che siano tutti autorizzati quelli. Sì, ma perché c'è già 20 anni l'autorità portuale, Carlo? Sì, comunque oggi è tutto cambiato, dai, hanno cambiato anche le apparecchiature. Io mi ricordo prima con un semplice scanner sentivi tutte e di più, a cominciare dai vigili a polizia, carabinieri, pompieri, tutti. E Claudio col manico sbagliato le apparecchiature, sono tutte in digitale e non si ascoltano più, ma prima con un semplice scanner, una AOR 1000 oppure un AOR 2000 sentivi tutto, anzi sentivi anche le telefonate da un posto all'altro, non c'era problema, potevi ascoltare qualsiasi cosa. Oggi invece tutto è cambiato, non ascolti più niente, perché hanno cambiato tutti i sistemi, magari hanno cambiato non solo il sistema di trasmissione, ma anche le apparecchiature che sono passate dalla analogico in digitale, sicuramente così. Vai Gianfranco. Sì, qua ancora non è così diffuso come si pensa al digitale, ma in continente oramai è quasi tutto, perché innanzitutto costa molto meno dal punto di vista della licenza, perché col digitale con un canale se ne hanno due, e poi è anche più chiaro, anche con i portatili si va molto più lontano a parità di potenza, e poi offrono tanti altri servizi, geolocalizzazione, comunicazioni sicure, lineari, insomma c'è un po' di tutto, dai, rispetto all'analogico è un altro pianeta. E certo che sì, è proprio così. Va bene, dai, signori belli, sono arrivati le 7:30, io vi lascio, vi saluto e vi ringrazio per il questo. Ciao Gianfranco, ciao Eugenio, ciao Carlo, Roberto se si è in ascolto e Claudio se si è in ascolto. Vai, saluto anche il musichiere, così almeno lo accontentiamo. Saluto a tutti e io ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Vai Carlo. Ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime. Anche io tra un po' devo uscire a comprare le pizze, stasera è giornata di partita e quindi vado un po' prima, perché sennò poi trovo la fila e faccio troppo tardi. Comunque ci sentiamo alle prossimine, anche io passo in QRT, ne approfitto perché si sta facendo tardi, un saluto a tutti quanti, quelli che sono Giulio, Roberto, Gianfranco e Claudio se in ascolto. ci sentiamo alle prossime, ascolto anch'io il finale, a voi il mic. Ok, di nuovo ciao a tutti, salutoni, io chiudo, ciao. Vai Gianfranco. Sì, ciao Giulio, buona serata, buona scena, ciao anche a a Carlo, alle prossime, poi chi c'era? Ah, c'è Eugenio ancora, vediamo, Eugenio riprendi, no, forse anche Eugenio è andato via, allora avanti chi è rimasto, c'era Claudio, ex di controllo, poi allora in generale chi è rimasto su 10? Forse c'era Roberto. Sì, ma era andato per una telefonata perché l'avevamo chiamato. Comunque ciao Gianfra, io sto uscendo a prendere le pizze, alle prossime, grazie della serata, insomma, della piacevole discussione. Sì, si fa quel che si può per tenere un po' in vita la frequenza, perché c'è stato un periodo in cui era veramente un deserto. Ciao Carlo, allora, alle prossime, buona pizza e buona serata. Hola. Attento, dice qualcuno, è rimasto qualcuno? Guarda che non stai uscendo, chi sei? Avanti qua su 10. Robert, ce ne siamo tutti andati. No, perché adesso l'ho sentito qualcuno, sembrava in FM, 9+10. Detto, questo forse sta uscendo in FM. Quindi avete concluso? No, io sono andato a prendere mia figlia, poi ho fatto un'altra cosa, alle 13 ho mangiato due pizze al volo, due pizzette, ho detto, non avevo neanche fame. Invece che riaccendiamo, non è arrivato nessuno quindi. Infatti questo è un messaggio automatico, la mia voce non è reale. Bene, eccolo qua, allora eri tu poco fa che non stavi uscendo, Claudio. Allora, la modulazione è chiara e perfetta, pulita, niente disturbi di sottofondo, il segnale 9+15, radio 5 è perfetta. Ok, vai Gianfra. Idem per me, stessa cosa, buonasera. Sì, non c'è problema, sono entrato adesso, vabbè, c'ero un'oretta fa, poi sono dovuto uscire, ho rientrato adesso pochi secondi prima di te e ho sentito Gianfranco e basta. Ok, comunque ti ascolto perfettamente, immagino di che radio stai parlando perché la qualità si vede e si sente, anche se non si dovrebbe vedere, però me la immagino. Ok, di nuovo a te Gianfranco. Sì, allora io sto tra poco spengo alcune cose perché come noto io quando parlo alla radio poi con le altre due mani che mi rimangono anche con i piedi faccio altre cose ti dicevo che Lincoln è definitivamente modificato con implementazione anche del Bluetooth e quindi più di così penso non si possa fare. Addirittura, sono contento. Dai. Una domanda, te lo volevo chiedere già da un po'. Tu radio, cioè tu utilizzi tanti tipi di radio, ma non sei mai stato proprietario di radio vintage, parliamo stazioni base, ne hai avuto tipo per dire Saturn Echo, Royce o genere di radio così, base? No. Io ho avuto tantissime radio ovviamente, baracchini di tutti i tipi, alcuni buoni, alcuni dei binoni inimmaginabili, poi non li ho tenuti molto. In campo amatoriale al numero uno ad esempio dei bidoni che mi sono capitati c'è lo Yaesu 757, il più grande bidone mai visto, figurati che in 27 riceve splatter anche da Marte, praticamente era inutilizzabile. Poi nient'altro, questi tanti. L'unica cosa, anzi te lo dico, riprendi. Sì, ma dico, il primo tuo apparato a memoria è stato un baracchino tipo un Bace, un Lafayette, quelli lì, parliamo di veicolari, o hai avuto sempre veicolari e mai stazione base? Mai stazione base, nel senso di CB, sempre veicolari. Tra l'altro uno l'ho anche smontato, ho cambiato tutto il case e l'ho modificato, era un Pace, credo cioè 6 canali, da 6 canali, di cui ancora quartati, per intendersi, 4 su 4, non c'erano anche le PLL, e quindi ne avrò fatto credo un 12-20 canali, un lavoro immane, ascoltando di invasione di canale, che sono scifole eccetera, una cosa micidiale. Bravo, invece io ti posso dire, vabbè, io ho iniziato prima mi ha parlato, è stato un Inter che 40 canali, un coso, un palmare, l'Endy come 40 canali ancora, poi ne ho avuto un altro uguale, me ne sono comprato un altro uguale per averlo così collezionistico, poi ne ho avuto altri 4-5 di quelli lì. Poi ha avuto il primo baracchino, è stato la RAM 48, ce l'ha ancora, nuovo fiammante, e poi sempre stazioni base, a me i veicolari neanche a regalo, cioè ne ho diversi di questi veicolari, ma proprio non piacciono. Lo so, ma la mia passione non era quella del vintage, era quella della continua modifica e perfezionamento di tutti gli accessori. Guarda, per dirtene una, io non so se tu conosci l'autoradio ad esempio della Sony, quella che mettono su tutte le auto Ford. Ecco, dopo una settimana con la radio l'ho presa e ce l'ho buttata su un armadio. Tu non hai idea di cosa c'è dentro, o meglio ce l'hai quando smonterà le macchine, che ti capita smontarsi. Tutto collegato a questo, a quell'altro, l'ho presa, smontata. Ci ho messo una cinese da 4 soldi, che fa di più e di tutto a costi inferiori, perché quelle radio in realtà sono binomi.